presenta Liceo Esploratori. Buongiorno viaggiatori, avete pronti i bagagli? Si parte! Qui in studio con noi abbiamo i nostri amici, guide ambientali ed esperti di storia del territorio. Un'altra tappa degli amici geoesploratori è quella dell'Oasi di Cronovilla. Abbiamo la fortuna di avere con noi in studio dei veri esperti. Ciao Riccardo, l'area naturalistica di Cronovilla si estende per circa 60 ettari lungo la sponda sinistra del torrente Enza, nel comune di Traversetolo. I laghi e l'ambiente di questa zona umida sono il risultato di un grande progetto di rinaturazione che ha recuperato un'area di vecchie cave di ghiaia. L'Oasi è in una posizione paesaggisticamente privilegiata. Situata al centro di un contesto fluviale, è l'unica zona dalla quale si può scorgere contemporaneamente il patrimonio storico medievale del Parmense e del Reggiano. Dall'osservatorio sopraelevato è possibile ammirare contemporaneamente, con una panoramica a 360 gradi, le fortificazioni e i castelli del territorio. So però che l'Oasi non si presentava così in passato. Infatti, anche voi mi avete confermato che si tratti di un'opera di rinaturazione. Dopo importanti interventi di ripristino naturalistico, sagomature delle vasche, creazione di percorsi di visita, costruzione di capanni d'osservazione, a Cronovilla troviamo diverse zone umide, ricche di vegetazione acquatica e animali, soprattutto uccelli. Attorno alle vasche sono stati ricreati o preservati gli ambienti naturali tipici dei fiumi, come i boschi ripariali, gli arbusteti e le praterie aride. E a quando risale l'Oasi vera e propria come la intendiamo oggi? Nel 1999 è stata creata questa Oasi in località Vignale di Traversetolo. Il luogo prende il nome da una fabbrica di orologi, la prima e unica in Italia, costruita nel 1876 sul canale della Spelta. Questa utilizzava esclusivamente meccanismi azionati ad acqua. Nel 1875 cambiò il nome in Cronovilla. Pensate, vinse due premi all'Expo di Parigi nel 1878 e nel 1900. Nel marchio dell'Oasi è raffigurata la torre con l'orologio. Dal punto di vista prettamente tecnico, mi affido agli amici Davide e Aizea che ci spiegheranno come funzionano gli impianti che consentono il controllo del livello delle acque. Nell'Oasi si trova un impianto di sifonamento, la cui manutenzione è affidata al servizio di bonifica. È stato realizzato appunto un sifone per non mischiare le acque ed è stato necessario farlo a valle per mantenere lo stesso livello dell'acqua. Il funzionamento si basa sul principio dei vasi comunicanti. Si tratta di uno snodo in cui una parte dell'acqua prosegue nel canale fino al torrente Termina e una parte scende in uno scivolo per proseguire fino all'altezza della Via Emilia. A sua volta il funzionamento corretto del sifone è permesso da un altro macchinario, lo sgrigliatore, una sorta di grande pettine che evita che il sifone stesso si intasi con erba, foglie e rami. Collegata con noi in studio la curatrice della mostra storica della Cronovilla, Sonia Moroni. Qual è la caratteristica degli orologi a pendolo di Beccarelli? È che lui aveva ideato un meccanismo semplicissimo ma funzionante perfettamente e a lunga scadenza, quindi aveva addirittura una carica che durava una settimana o più. Questi erano diffusissimi, infatti parte della fortuna di Beccarelli, che nasce in Francia, è perché già ad esempio l'esercito francese, tutti si chiamano officiel queste, perché tutti gli ufficiali erano muniti di un orologio. Lui è originario di Borgo Taro, frequenta le scuole a Parma, comincia le scuole a Parma, il liceo a Parma, poi sì, è curiosissimo di meccanismi, di meccanica, quindi si dedica allo studio della meccanica e a 20 anni parte e va a Parigi, dove frequenta proprio una scuola di orologeria. Parigi era la patria degli orologi e quindi studia a Parigi, poi torna a Parma, e siamo negli anni fine 1860-1870, torna a Parma e a Parma apre la prima fabbrica di orologi. E è una fabbrica che sfrutta l'acqua del Naviglio di Parma, che è un canale che attraversava all'epoca a cielo aperto Parma, la chiude e viene a Traversetolo, a Vignale di Traversetolo. Allora, l'energia che produce quest'acqua mette in movimento tutti i meccanismi all'interno della fabbrica. Quindi nella fabbrica c'era un'infinità di gente che lavorava: fabbri, tornitori, decoratori, incisori, doratori, c'erano disegnatori, progettisti. Già nella villa, nella villa avete visto, c'è la villa che ha un porticato davanti e poi c'è una grossa costruzione di fianco. La grossa costruzione di fianco, c'erano i laboratori per i disegni, per i decori, e c'erano anche le abitazioni di alcuni operai. In Italia però ha venduto moltissimo, perché riceve la commissione dal governo italiano di fornire gli orologi a tutte le stazioni ferroviarie, ma poi anche per gli uffici pubblici. Perché è stata chiusa? È stata chiusa perché nel 1908, mentre era in piena attività, Luigi Beccarelli muore. Con la prima guerra mondiale, molto probabilmente, intanto cala la fabbricazione, perché quasi tutti gli uomini vanno in guerra. Periodo di guerra si vende pochissimo, non è certo un bene primario un orologio, e quindi lentamente la fabbrica tende a chiudere. Come poter sfruttare questa energia quando la fabbrica non va? Allora, il signor Beccarelli, intanto che costruiva la sua casa, si era anche comperato, poco alla volta, un enorme fondo che arrivava fino verso Montechiarugolo. Coltivava il fondo e quindi macinava tutti i suoi grani e macinava anche i grani degli altri. Siamo all'inizio del Novecento. Beh, Beccarelli ci ha pensato ed è il primo nel comune di Traversetolo, e penso anche limitrofi, che acquista una prima trebbiatrice. Che con che cosa va? Va con le cinghie che sono messe in moto dalla forza dell'acqua. E il nostro percorso si conclude qui. Ringraziamo tutti coloro che lo hanno reso possibile, dagli autori agli speaker. Salutiamo i nostri ascoltatori e chissà, probabilmente ci incontreremo ancora e saremo al vostro fianco per fare altra strada insieme alla scoperta del territorio. Non ci resta che dirvi grazie per averci ascoltato. Buon viaggio! Questo podcast è un percorso che l'IC Montechiarugolo, con il supporto di Fondazione Cariparma, ha voluto offrire al territorio e ai viandanti che incontreranno le sue bellezze. Il progetto Le acque del territorio di Montechiarugolo è un progetto di rete che rafforza le sinergie tra realtà scolastiche e i comuni della zona ed è importante perché valorizza il curriculum verticale dell'istituto e la continuità tra i vari ordini di scuola, consentendo ai ragazzi di conoscere il loro territorio e partecipare questa conoscenza a chi lo visiterà. Hanno partecipato in fase di progettazione e realizzazione bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni e sono stati coinvolti esperti e autorità del territorio.